Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Quali saranno i nuovi accordi commerciali fra Regno Unito e Unione Europea? Quali le nuove tariffe doganali? E come saranno gestiti i controlli alle frontiere in zone calde come Calais, dove si concentrano i migranti che dalla Francia cercano di raggiungere le coste britanniche a bordo dei tir? All'indomani del referendum che ha decretato la Brexit, questi sono solo alcuni dei quesiti su cui si interroga la Freight Transport Association, una delle maggiori associazioni di categoria inglese. Domande che riguardano tutto il mondo dei trasporti e della logistica. Dopo anni di leggi comuni, infatti, questo segmento risentirà forse più di altri dell'uscita di Londra dal mercato unico e sarà costretto a ripensare tutta una serie di procedure ormai consolidate da tempo. Anche perché lo scambio commerciale fra Regno Unito e Unione Europea, secondo l'associazione, vale quasi 400 miliardi di euro. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. È sicuramente ancora presto per parlarne, ma nell'ampio dibattito sulla Brexit c'è un tema che non deve essere sottovalutato, e cioè quello della libera circolazione delle merci. Cerchiamo quindi di capire quali potrebbero essere le conseguenze da questo punto di vista dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. In compagnia dei nostri ospiti vi presento il primo, Camillo Lobina, dirigente divisione trasporti internazionali UE del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Allora, dottor Lobina, lo dicevamo prima, è assolutamente presto per parlarne, ci saranno sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, riunioni e accordi che riguarderanno la libera circolazione di merci e passeggeri, ma qual è lo scenario che si prospetta? Ci troviamo di fronte a una situazione che è nuova, non ci sono dei precedenti significativi, tranne l'ipotesi della Groenlandia, che però non è rilevante, per cui l'articolo 50 del trattato ci pone di fronte a una situazione che è tutta da scoprire. Data delle, diciamo, traccia delle linee su come muoversi, e sarà il Regno Unito che dovrà presentare notificare la sua intenzione di ritirarsi dall'Unione Europea al Consiglio Europeo, il quale detterà delle linee guida. Tanto per far capire ai nostri radioascoltatori di cosa stiamo parlando, attualmente quindi come è disciplinato il traffico delle merci all'interno dell'Unione Europea e quindi anche nel Regno Unito? Sì, intanto parliamo non solo di libera circolazione delle merci, ma anche di libera circolazione dei servizi, perché noi stiamo parlando di servizi di trasporto anche. Attualmente, essendo uno Stato membro, il Regno Unito ubbidisce a tutte quelle che sono le regole in materia di trasporto, in particolare per quanto riguarda l'attività concreta è necessario un titolo che si chiama licenza comunitaria. La licenza comunitaria consente di effettuare trasporti fra il Regno Unito e il resto dell'Europa, quindi fra tutti i Paesi membri, con tutti gli obblighi e regole che riguardano il regime della licenza stessa. Nell'ipotesi, come dire, più pessimistica e che quindi trasformerebbe tutto il Regno Unito o una parte del Regno Unito in una sorta di stato extra UE per le merci, cosa potrebbe succedere? Intanto posso dire una cosa, c'è un aspetto che non cambierebbe, per esempio l'appartenenza del Regno Unito, così come l'Italia, alla CEMT, cioè alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, non cambierebbe, quindi il regime delle autorizzazioni multilaterali continuerebbe ad essere esistente, ad essere utilizzato per effettuare trasporti fra il Regno Unito e tutti gli altri stati aderenti alla CEMT, che sono 43, quindi sono più dell'Unione Europea. Se invece in questo accordo, diciamo, di recesso per il cui negoziato il Consiglio Europeo detterà delle linee guida, non si riuscisse a dettare delle regole tipo per esempio un accordo di libero scambio o accordi di associazione come ci sono adesso, potrebbe residuare che il Regno Unito possa scegliere di rientrare nello spazio economico europeo. In tal caso le regole dello spazio economico europeo sono, dal punto di vista dei trasporti, praticamente le stesse e quindi si continuerebbe a operare con il regime della licenza comunitaria. Ecco, quella della sostanziale continuità è sicuramente una buona notizia per chi opera in questi paesi, per chi effettua trasporti, e ne parliamo in compagnia di Guido Bertolone, AD di Arcese Trasporti, che effettua un'intensa attività di traffico merci proprio con il Regno Unito. Intanto, passatemi la provocazione, è vero che parliamo di libera circolazione di merci, senz'altro, e di libera circolazione di servizi. È vero però altrettanto che all'interno di quello che si dice libera circolazione dei servizi esistono diverse barriere e diverse spinte molto attuali all'interno di tutta l'Europa e non solo in Inghilterra per la Brexit a limitare la possibilità di esercizio dei trasporti all'interno della UE. Cioè quello che sta succedendo in maniera diffusa e secondo me ancora prima della Brexit è quello di avere delle spinte nazionalistiche rispetto al protezionismo dell'esercizio del trasporto di merci, quello che succede col salario minimo, con la legge Macron, piuttosto che nella stessa Inghilterra con l'introduzione di pedaggi o tasse destinate esclusivamente a mezzi con targa straniera, in realtà all'interno di una cornice di libera circolazione dei servizi limitano l'esercizio libero del trasporto. Quindi dice lei questi provvedimenti sono paradossalmente molto più pericolosi per la libera circolazione delle merci e dei servizi rispetto alla Brexit? Sicuramente per la libera circolazione dei servizi e soprattutto dico sono già in atto. Questo è un punto importante da non dimenticare. Ritorniamo invece alle attività di trasporto attuali all'interno di questi paesi. Quali sono le particolarità e le difficoltà legate a questa attività in questo momento? Sicuramente, per quanto riguarda l'Inghilterra è molto attuale il tema dell'attraversamento della Manica e quindi dei temi di security e di immigrazione e di non far accedere i mezzi, sottoporre controlli di lunghe file all'Eurotunnel, eccetera. Ecco, c'è stata una vera e propria emergenza qualche mese fa rispetto a questo tema, è ancora così? È ancora difficile far transitare i mezzi senza che ci siano tentativi di attacco? L'emergenza è sempre assolutamente attuale, va a ondate, dipende dai momenti, dalla stagionalità, probabilmente anche degli agenti atmosferici sulla traversabilità della Manica. Infatti noi abbiamo cambiato anche molto la modalità, noi spingiamo storicamente ormai da qualche anno sull'intermodalità e stiamo cercando di soprattutto affrontare l'Inghilterra utilizzando servizi intermodali da Zeebrugge con navi, diciamo, che non siano quelli dello stretto di Calais, molto più facilmente attaccabili. Questo è sicuramente un tema. Sicuramente uno dei temi importanti è quello della introduzione di tasse sulla circolazione nell'Inghilterra, già di qualche anno fa, e probabilmente anche quello della legislazione sui termini di guida dal punto di vista dell'accesso a Londra. Lobina, torniamo invece al tema Brexit, cosa succederà in futuro? Ecco, ma qualora non si dovesse raggiungere un'intesa tra Regno Unito e Unione Europea, cosa potrebbe succedere? Allora, intanto ricordiamo che il Trattato di Lisbona, forse non prevedendo che sarebbe stato veramente utilizzato, ha previsto un termine. Il paese che intende recedere, che intende ritirarsi, deve notificare tale intenzione e nell'arco di 2 anni dalla notifica devono essere poi negoziati e risolti, conclusi, diciamo, l'aspetto dal punto di vista giuridico di regolazione dei trasporti. È possibile però, qualora nel biennio non si riesca a concludere, a regolare una situazione sicuramente complessa, ottenere una proroga di questo periodo. Ci vuole una decisione all'interno del Consiglio europeo, che è quindi il vertice, diciamo, dei capi di Stato, con un voto all'unanimità. È presumibile che se non si riesca a risolvere si arrivi anche a questo, nel biennio, che si arrivi anche a questo passaggio.